ma che giovedì tu lavori lì. Direttore, tu lo sai, dimmi dove lei. Non c'è, non c'è, ammalata forse, comunque qui non c'è. Comprerò le banane, comprerò. Ma però, dove è andata stamattina, non lo so. Scatolette colorate, carni rosa congelate, c'è di tutto intorno a me, ma lei non c'è, no. Supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, venerdì. Tu lavori lì. Dimmi ieri come mai tu non eri qui. Tutta colpa della frutta, e così sono stata a letto giovedì anche tu. Ami tanto le banane anche tu. Ma però costan troppo le banane, e perciò questo nostro grande amore, che sfortuna.